Buonasera e bentrovati su Non aprite con la persiana. Un nuovo microfono, allora, famore della Madonna, che già io mi ci siamo leticate, mi ci siamo leticate fino a mo', eh! 1.2 dopo! Non tocca manco tu, stati qui, no? 1.12 1.99 dopo le sventure con il microfono, eccoci, finalmente ci siamo riusciti. E dopo morti che ci hai mandato io. E tu per i grazie sentite a Margherita Tomica l'ha accattato sul microfono. E pensare che bastava solamente una prova Margheritone, ma voi sapete che avevano figlio ricco Margheritone? Sì, l'ho visto. Ah, ma capite, due pesci, un'ora, tutti i rassegni, famosi assegni cabriolet. Ha capito Margherito? Ha capito Margherito? Sì, ho visto Margherito. Margherito. Comunque, carissimo Margheritoni, questa volta tuo figlio è un ottimo figlio di Indrocchia. Perché? Tutti i soldi catene che tutta la città catena alla sì, capo. Sì, però voglio... Direi che la città alla capo ha preso tuo padre. Cacca, io mi ha accurcato, Eh sì, per i nuovi vecchi 80 anni. No, sono i nuovi, me, che cazzo. Tu mi ha accurcato a masonare i cagini. Scusa, adesso i cani ti ha masonare i cani. I piccoli già le chiuse. Insieme a parte. Ha fatto buone. Avessi fatto un ballo nel un po' di piccola, ha fatto buone. Benedetto. Ringraziamo la stufetta che sta riscaldando Laura. Come sempre, come tutte le sere. E l'altra che sta riscaldando Emilio. E qui ci stiamo chiedendo che ha fatto per Licori, non dovrebbe scaldarla lei. Non hai capito per chi ha sta. Ah, per Licori stasera è muto. No. Non hai capito per chi. E fammi venire i ragazzi. Non ho capito perché lo sta facendo girare se è solo per lui. Ma poi così? Ma con un solo riscaldato il computer che stasera abbiamo visto troppo già. Salutiamo Carletto che anche stasera ci ha detto il bidone. Era di pagare l'ammenda. Fabbrica bidoni, qualsiasi dimensione è portata a Carlo Rio. Bolle mille bolle. La rivendita presso. Saluto a Caseificio Roberto. E giustamente ringraziamo anche Zio Pino, a noi Zio Pino. E come sempre solite vaffanculo vanno. Ma no, chiedo Zio Pino. Abbiamo trovato il nuovo per stessa cosa. Ok. Pino si chiama. Pino Peppino, che taglio. Tanto cose a Natale. Che niente di. I soliti vaffanculo li mandiamo a Biogiannonaccio, eccetera, eccetera. Ma tu la... ancora esiste il Biogiannonaccio? Tutti gli segni che avevamo mandato ancora canta. Il problema è che ancora canta, non che ancora campa. No, noi diciamo campa, invece canta. Campa, canta, vabbò. A mia va. Ci preme ricordare quel povero ragazzo morto per lavorare 5 euro l'ora alla costruzione del palco. Francesco, se non erro. Non vorrei sbagliare, sì. Sono cose che non dovrebbero succedere, purtroppo succedono. Giustamente. Ricordiamo che il tour di Giovanotti è stato sospeso. Vogliamo ricordare ai fan. L'altra volta abbiamo ricordato nella nostra introduzione anche purtroppo. Ma riuscita. Quelli che erano le vittime degli incendi della strada, passando dai vari Silvio. A Mirko, a Francesco, il ragazzo di Bisignano. Sì. Lasciamo Stare. Per fortuna è un'altra cosa, io vorrei dire una cosa. Evita di calpestare le ciabatte e roba varie. Comunque io vorrei dire un'altra cosa. C'è gente che se l'è presa con Giovanotti. C'è gente, stai parlando di una cosa seria, è già che c'è stata la stufa. E già! Già dici. Gente che se l'è presa con Lorenzo. Ma che non c'entra la opera sua, però lui è ignaro. Lui va sul palco, canta e se ne va. Che succede quando montano, smontano? A dirgli, non ne può fregare di meno, perché ci sono i diritti. Come succede nei piccoli paesi, nei nostri concerti, il palco è tutta l'attrezzatura a discrezione del service, che vengono caro pagati. Questo perché loro dicono, perché loro lavorano anche Natale e Capodanno, ma a me non me ne frega niente, ti pagano sacchi soldi e poi succedono così cose. sul cazzito, comunque. No, giusto io, per precisare. Sì, no, è, questo, oh. È giusto. Hai fatto una bella precisazione, cara Laura. Grazie. Comunque, io vorrei dire, non va pigliate questi poveri cristi, sì, si pigliano sacchi sordi e roba varia, però loro non c'entrano niente. Quindi evitate di fare posti inutili e sciocchi e di dire minchiate. È facile fare la retorica. Ecco. E fa ma... più ogni cosa ci facciamo un post. Un coso, un post, mo più ogni cosa facciamo la polemica, mo più ogni cosa. Facciamo... infatti posso farlo anche una. Lo so che di politica non ne dovrei parlare, lo so. Noi però siamo a politici, però è una cosa che va detto. Ho visto l'altro giorno un post su Facebook dicendo che il nostro premier ci chiede insomma di fare dei sacrifici, ma che lui prende 70.000 euro al mese. 70.000 non so. Euro però l'ha rifiutato. Posso, infatti volevo fare questa precisione. No. Sì, sì, quello da, da senatore sì, però volevo precisare, siccome io capisco che i tagli eccetera eccetera fanno male a tutti, ok? Però per chi non l'avesse sentito, l'ignoranza è tanta, per chi non l'avesse sentito, il nostro premier ha rinunciato sia al compenso da ministro dell'economia sia a quello da presidente del consiglio, quindi è noto che avete già disposto e capi lamentate perché la crisi c'è. Facci e basta. Se proprio vogliamo dirla tutta. Beh, adesso ti rifiuta pure i 25.000 euro. Sì, questo sì, però, una cosa però non è neanche capito, è il rincaro sulle sigarette quando la tassa sui beni di lusso tipo aerei è stata dimezzata. Questo no, non scusa, non aumenterà. Dici che i poliparlamentari ci vogliono cacciare i 5.000 euro, qua hanno fatto una guerra, un burdello. No, il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari eccetera eccetera avverrà dal prossimo stipendio utile. No, se ne parla. Loro se, dicono, loro dicono se che il taglio può essere fatto. Loro dicono che sarà effettuato al prossimo stipendio utile, che sarà quello di gennaio, perché chi di dicembre sanno già andascato. Giustamente c'era già. Però io volevo solo dire le cose come stanno, perché non mi sembra giusto che siccome questa persona ha rinunciato a bei soldini, non mi sembra giusto che venga criticato così, italiani, a prescindere da tutto, italiani. A prescindere da tutto. Manda la canzone che ho fatto un quarto d'ora di introduzione. E ci vuole,